Disco Della Settimana. Prova a camminare su questo rasoio senza cadere dentro il mattatoio. Prova a camminare su questo rasoio, riuscire vivo da sto pazzato che già conosci e che se scivoli ti scusci e che puoi farti una ferita, certo più dritta della tua vita. E sangue arriva solo dopo un po' a coprire anche quel poco che puoi vedere del tuo interno, che è così fragile e così fraterno. Prova a camminare su questo rasoio senza cadere dentro il mattatoio. Prova a camminare su questo rasoio, riuscire vivo da sto pazzatoio. Prova a camminare su questo rasoio senza cadere. Scivoli ti scusci e che puoi farti una ferita, certo più dritta della tua vita. E il sangue arriva solo dopo un po' a coprire anche quel poco che puoi vedere del tuo interno, che è così fragile e così fraterno. Prova a camminare su questo rasoio senza cadere dentro il mattatoio. Camminare su questo rasoio, uscire vivo da sto pazzatoio. Normalmente nel disco della settimana vi raccontiamo un album che è appena uscito di un artista esordiente. Quasi mai abbiamo presentato delle compilation, è successo una sola volta da quando abbiamo iniziato questa rubrica a Radio Città Fujiko, però facciamo uno strappo alla regola e c'è un motivo molto importante. Diciamo che il 4 dicembre è uscito Erde Mama de Me, Siamo Sempre Pronte, Siamo Sempre Pronti. Si tratta di un doppio album che contiene 24 brani, interpretati tutti da artisti diversi e che hanno deciso di partecipare alla creazione di della memoria musicale di una persona estremamente importante, di un partigiano importante, di un ragazzo che è stato raccontato anche da Zero Calcare, è stato raccontato da tantissimi altri artisti. La persona di cui stiamo parlando è Lorenzo Orsetti. In sua memoria, appunto, il 4 dicembre è uscita questa compilation curata da Lucio Leoni. La canzone che abbiamo ascoltato in apertura del disco della settimana è una delle 24 che compongono la tracklist ed è dei Tre Allegri Ragazzi Morti e si chiama Rasoio, Mattatoio, Pizza Toio. L'ho detto io perché so che Mauro con tutte queste R potrebbe rimanere un attimo offeso, quindi effettivamente avrei fatto un po' fatica. Ma adesso, prima di raccontarvi tutti gli artisti, che sono veramente tanti, che hanno preso parte a questo bellissimo progetto, diciamo appunto che Herde Mama de Me è un progetto curato da Lucio Leoni e prodotto dalla Black Candy Produzioni in collaborazione con l'ARCI di Firenze, l'associazione Lorenzo Orso Tekosher, che vuol dire combattente, la Wiki Onlus, Vijarvek Fagina Azad, Rojava e Bau Publishing. Bau Publishing è quello che produce anche Zero Calcare, che in questo lavoro ha curato la parte artistica, possiamo dire. Grafica. No. Bravissimo, quella parola lì era quella che cercavo. Che ogni tanto arrivo quando è il momento. Vi facciamo ascoltare adesso un brano che è originariamente di Giangane e in questo lavoro è presentato in collaborazione con Lucio Leoni. È bellissimo. Quindi alzate un po' il volume della radio, alzate il volume di quello che ci avete con cui state ascoltando Radio Città Fujiko. Divertitevi ascoltando Adotta un fascista. L'ho visto, camminava per strada, bomber alfa e la testa rasata, non curante dei gatti bagnati e della polizia, innocente prodotto randaggio di periferia. Lui da solo salutava la gente all'apologia di fascismo indifferente, ma il suo grido d'aiuto non riceve la giusta attenzione, perché è contro natura adottare in questa nazione. Adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. Affacciati in finestra e guardando l'asfalto bagnato, scrutando dall'alto quel Cristo di nero inzuppato, i due si guardano e dicono: a Mauri, tu ricordi Renato? E certo tu parli del nostro bambino mai nato. Adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. E sia russo sia nero, sia frocio d'etero, sia preto o carabiniero, che sia fascio davvero, sia stronzo tenero, oppure che sia come me, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. Come vi abbiamo promesso in apertura del disco della settimana, vi avremmo raccontato chi ha partecipato a questo bellissimo progetto. Ricordiamo che la doppia compilation Erdem Amademe Siamo Sempre Pronte, Siamo Sempre Pronti è uscita pochissimi giorni fa, il 4 dicembre 2020. Abbiamo ascoltato già due tracce che sono estratte da questo lavoro, ma gli artisti che hanno partecipato, giustamente, sono davvero tantissimi. Hanno voluto ricordare Lorenzo Orsetti, raccontare Lorenzo Orsetti in qualche modo, e tra di loro ci sono i 24 Grana, Serena Alta Villa, Assalti Frontali, Angela Baraldi, Cesare Basile, Paolo Benvenu, Giorgio Canali Rosso Fuoco, Pierpaolo Capovilla, Marco Colonna, Vittorio Continelli. E poi passo la palla a Mauro, così io prendo fiato. E ci sono anche Max Collini, Cristiano Crisci, Dagermoff, Ginevra Di Marco, El Tempesta, Giancane, che abbiamo ascoltato poc'anzi, la rappresentante di lista Lucio Leoni, Malasuerte, Mocadelic, Num Miriun, Rita Lilito Berti, Marco Parente, Carmelo Pipitone, rapper CJ ASAP, Marina Lei, Roncea, Tre Allegri Ragazzi Morti, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, il contributo artistico di Zero Calcare. Insomma, una marea di gente che ha preso parte a questo progetto. La cosa che mi piace peraltro è che moltissimi di questi artisti li abbiamo raccontati nel nostro percorso con Radio Città Fujiko, nel disco della settimana, con delle interviste, quindi ecco, dai, abbiamo dei buoni gusti, si può dire. E tra l'altro Zero Calcare, come hai detto tu, ha contribuito a livello artistico perché ha fatto le illustrazioni del booklet, che sono tratte dal suo fumetto Macelli, che è tra l'altro un bellissimo lavoro che abbiamo anche noi, è molto molto bello, e vi consigliamo eventualmente di andare a cercarvelo. Le canzoni che si trovano dentro questo doppio CD, le 24 canzoni, sono alcune vecchi pezzi di artisti che hanno preso parte, come il primo che abbiamo ascoltato, dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Alcuni sono delle cover, ad esempio Marina Lei propone una cover di Curami dei CCCP, per esempio. Adesso vi farei ascoltare un altro brano molto bello che è scritto proprio per Lorenzo Orsetti, per quindi l'Orso. In questo caso è un inedito. È un inedito, è proprio scritta per questo progetto, ed è una canzone degli Assalti Frontali featuring El Tempesta e Num Miriun, che tutti insieme hanno fatto questo pezzo che si chiama proprio Compagno Orso. E allora ascoltiamocelo. Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a frima. Ale, alleluia. Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Copanè. Ale, ale, ale. Il il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava. La libertà è un soglio, il sogno del Rojava. Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei. Caro compagno Orsa, ammiro la tua forza, la voglia di lottare, il dolore smorza. Sei partito con un ideale, mai più oppressione e per sempre ribellione. Ci hai lasciato la vita per la tua lotta infinita. Scrivo con carta e matita che la tua storia non venga smarrita. E quello è il fiore di un partigiano morto per la libertà, per la resistenza, per l'uguaglianza, per ogni mancanza di diritto. Non ci hanno mai sconfitto, va avanti sempre e per sempre il nostro conflitto. Mi ci butto a capo fitto, non riesco a stare zitto. Osare, lottare, la libertà solidale. Sono il tempesta, ponte di nonna. Noi costruiamo ponti in ogni zona. Insieme a te la mia voce risuona e ricorda la speranza della causa che non si abbandona. Mezzaluna rossa illumina la notte buia. Noi siamo intorno al fuoco a free. Ale, alleluia. Il mondo intero capirà, capirà il perché quando entreremo a Kobané. Ale, ale, ale. Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava. La libertà è un soglio, il sogno del Rojava. Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei. Il cielo ci sorride, le nuvole fanno corride, le montagne ci difendono da chi ci uccide. Siamo intorno al fuoco, intorno tutto brucia. In un mondo che si è perso, questa terra è piena di fiducia. Vicino o combattenti, donne e compagne, non abbiamo amici, noi abbiamo le montagne. Una regione dove ognuno ha la sua religione, senza paura di Dio e di non trovare l'amore, di non avere ragione, di dubbi ne siamo pieni. Ma i bambini corrono felici e sereni, quando li vedo mi viene nostalgia e penso al Kurdistan e penso a casa mia. Ora lasciamo una scia, i tuoi occhi diventano ali, vengo a portarti tra noi, assalti frontali. Compagno Orso, morto in battaglia in corso, ucciso da uno sparo lungo il suo percorso, e il dolore di quelli che sono vivi e l'amore di cui non saremo mai privi in questa musica che è gratitudine per chi ha lottato per la libertà, per l'identità contro la solitudine. Mezzaluna rossa illumina la notte buia. Noi siamo intorno al fuoco a free. Ale, alleluia. Il mondo intero capirà, capirà il perché quando entreremo a Kobané. Ale, ale, ale. Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava. La libertà è un soglio, il sogno del Rojava. Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei. I miei fratelli sono in strada, io non li ho mai scordati e mai li scorderò. Ho una famiglia in ogni posto, sono a posto bro. Ho la coscienza sporca anch'io, per questo ho detto stop. Non ho imbracciato le armi ma le arti dell'hip hop. Militant rap con militantà, di città in città. Questa canzone la dedico a tutte e tutti gli antifa. Perché è vero, Orso non lo conoscevo. Che vuoi farci? Senti più solo cazzate e riescono a raccontarci. Perché questa è l'Italia, sociale musica a palla. Zero sociale la musica, non si impegnano a farla. Non farti fottere compa, alza la testa. Ogni mia traccia è una protesta, te lo scrivo insieme a Salta e Tempesta. Ho visto gente partire e mai più tornare. Per la libertà, per la libertà. È alto il costo da pagare. Devi lottare sempre, lottare serve. Perché si sa che nella vita si vince e si perde. E queste rime so per te, chi ce l'ha insegnato. Nelle lotte, dentro i cuori, per sempre verrai portato. E per le strade, bandiere rosse e nere al vento. È morto un partigiano, ne nascono altri cento. Mezzaluna rossa illumina la notte buia. Noi siamo intorno al fuoco a free. Ale, alleluia. Il mondo intero capirà, capirà il perché quando entreremo a Kobané. Ale, ale, ale. Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava. La libertà è un soglio, il sogno del Rojava. Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei. Adelante! Speriamo che il racconto di questo disco vi stia piacendo, di questa raccolta vi stia piacendo, ma vogliamo anche raccontarvi quello che c'è dietro l'album, perché c'è una mission, una raccolta fondi legata appunto all'uscita di questo disco, del che è uscito appunto pochissimi giorni fa, il 4 dicembre, e ci raccontano insomma che raccontare Lorenzo significa anche raccontare la lotta che ha fatto, la sua lotta, quindi tutti i proventi che derivano dall'acquisto di questo disco, sia dal supporto fisico e poi anche dalla pubblicazione digitale dell'album, saranno destinati alla popolazione curdo-siriane. E in particolare all'Alan's Rainbow, che è un edificio dove vivono in sicurezza, diciamo in un ambiente comunitario, fino a 50 bambini e bambine rimasti orfani a seguito dell'occupazione dell'ISIS di Kobane, in Siria. Oltre al semplice alloggio, in questa struttura viene offerto anche sostegno a tutti questi bambini e le bambine per superare le esperienze traumatiche dell'ISIS. Anche se la guerra è ancora in corso, comunque ci sono associazioni che si occupano, per fortuna, anche di questi bambini. Questo perché? Perché l'idea appunto di questo progetto è di dare una possibilità a questi bambini di superare questo evento traumatico, spesso la perdita di entrambi i genitori, e di riuscire ad avere una prospettiva di vita migliore per superare, insomma, quello che gli è accaduto. Quindi è un progetto estremamente importante che guarda in avanti, guarda al futuro. E si propone anche l'intento di creare un ambulatorio medico pediatrico all'interno di questa struttura. Quindi, insomma, al di là della bellissima musica che vi stiamo presentando, ma che non riusciremo a farvi ascoltare interamente, dietro questo progetto musicale c'è un intento veramente, veramente importante. Appunto, l'ambulatorio pediatrico dell'Alan's Rainbow verrà intitolato a Lorenzo Orsetti, soprannominato The Kosher, partigiano internazionalista. Dopo vi raccontiamo brevemente anche chi era lui, e intanto vi facciamo ascoltare un altro pezzo che si intitola Guernica, tratto da quest'album, ed è dei Rosso Fuoco e Max Collini. Ha detto che sei andata a morire, ma non ha raccontato la storia, la causa, il contesto. Perché amiamo osservare gli eventi da molto lontano, nella poco fiera speranza, nella poco fiera illusione di non essere noi a dover ritornare sui nostri monti o su quelli di altri. E intanto bombardano Guernica, una 10, 100, 1000 volte, una storia infinita. E lo bombardano Guernica. Magari faranno anche un film e proveranno a spiegare da dove hai tirato fuori il coraggio di andare, mentre noi cercavamo milioni di scuse. Milioni di scuse per restare a guardare. E intanto bombardano Guernica, una 10, 100, 1000 volte, una storia infinita. In loop bombardano Guernica, mentre ognuno si fa i cazzi suoi e pensa alla sua vita. Resta che il tempo per venirti a trovare. Adesso che riposi per sempre vicino allo stesso fiore. E intanto bombardano Guernica, una 10, 100, 1000 volte, una storia infinita. In loop bombardano Guernica, mentre ognuno si fa i cazzi suoi e pensa alla sua vita. We'll be right back. ora non resta che il tempo per venirti a trovare, adesso che riposi per sempre vicino allo stesso fiore. Allora, diciamo che non è facilissimo raccontarvi quest'album, intanto perché è bellissimo ed è difficile da presentare come si deve, ma poi anche perché ci troviamo a leggere e comunque a raccontarvi della realtà che succede in Siria, perché ricordare Lorenzo Orsetti, che appunto era un ragazzo, ahimè, che è morto l'anno scorso, il 18 marzo 2019, lui veniva da Rifredi, zona di Firenze, e ha combattuto al fianco dell'IPG e è morto a Baghuz in Siria, mentre combatteva contro l'ISIS. Non è l'unico partigiano italiano che è andato in Siria a combattere, e vorremmo dedicare un momento anche a Eddie Marcucci, che inspiegabilmente si trova a vivere una situazione paradossale in cui è costretta a stare chiusa pressoché con della sorveglianza speciale a Torino per il semplice fatto di essere andata a combattere l'ISIS in Siria. Quindi ecco, spesso il disco della settimana vuole essere un momento divertente, un momento di spensieratezza, invece oggi raccontiamo un po' delle cose più toste e più importanti. Continuiamo a raccontarvi come è nato questo progetto. Erdem Amademè è appunto un modo di mantenere viva la memoria di Lorenzo Orsetti, ma allo stesso tempo anche di, ci dicono gli organi, ci dice Lucio Leoni, che ha curato la direzione di questo album, è un modo di tenere, diciamo, l'attenzione e avere una presa di posizione netta e determinata per guardare a quello che sta accadendo, una delle più imbarazzanti sconfitte politiche, umane, sociali e culturali del mondo occidentale contemporaneo. La questione curda, l'abbandono e l'indifferenza del mondo intero nei confronti di un popolo che lotta per la libertà propria e quella di tutti, si pone come ultima linea difensiva nei confronti del fanatismo religioso. Ecco, quindi l'intenzione è sì raccontare Lorenzo, ma anche in un qualche modo ricordarci che non dobbiamo abbassare la guardia, non dobbiamo dimenticarci di quello che, insomma, sta accadendo. Questa compilation è frutto di una direzione artistica collettiva, abbiamo nominato Lucio Leoni, però in realtà è stata un po' una catena, diciamo, no? Perché ogni artista che ha partecipato e si è appassionato a questo progetto ne ha coinvolto un altro. Solo per motivi tecnici ci si è fermato a 24 canzoni, potevano essere molte di più. Tra le band le voci coinvolte però sono molto più di 24, come abbiamo detto prima. A questo punto, ricordandovi anche che potete preordinare, insomma ordinare l'album su il sito della Black Candy Records, ricordandovi che i proventi delle vendite di quest'album saranno utilizzati per la creazione di un ambulatorio medico appunto in Siria, nel Rojava. Direi che chiudiamo con l'ultimo pezzo che dedichiamo all'IPG, a tutti quelli che lottano per un mondo migliore, e scegliamo la canzone dei 24 Grana che si chiama Orso. Ho visto troppe guerre per non combatterne una. Se sono morto in battaglia, è stato in primavera. Mentre spuntavano i fiori, prima della vittoria. Ogni goccia diventa tempesta, ci crediate o no. Ogni goccia diventa tempesta, lo vogliate o no. Ho avuto troppe risposte sbagliate per non fare da solo. Forte come un orso, fedele come un partigiano. Guardando la terra dall'alto, libero come un gabbiano. Ogni goccia diventa tempesta, ci crediate o no. Ogni goccia diventa tempesta, lo vogliate o no? Tante volte ho pensato all'Italia e a cosa crede la gente. Ma l'internazionale in Rojava adesso è più importante. Faccio le cose sul serio con chi resiste davvero. Perché ogni goccia diventa tempesta, ci crediate o no. Ogni goccia diventa tempesta, lo vogliate o no. Saluto finale è quello di un partigiano, il mio sorriso dal fango arriverà lontano e sarà sangue anche sul vostro divano. Ogni goccia diventa tempesta, ci crediate o no. Ogni goccia diventa tempesta, lo vogliate o no.